La lotta contro il fascismo e contro i nazisti. In Italia, in Jugoslavia, in Francia, dove è sempre una lotta comune. Quindi se io combatto con gli italiani, combatto anche per la mia gente. E gli dissi così, dico, io rimango qui perché penso che combattere con voi, combatto anche per la mia gente. Il 25 aprile 1945 il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia proclama l'insurrezione generale, mettendo così fine all'occupazione nazista e al regime fascista. Cosa rimane oggi di questo evento e come si è costruita la memoria pubblica della Resistenza? Lo raccontiamo nello speciale Tra Utopia e Lotta, 80 anni di Resistenza in tre puntate dedicate alla lotta di liberazione. Ciao a tutte e tutti dalla redazione di Vallun. Anche se la resistenza per noi è la parola chiave attorno alla quale organizziamo ogni anno la programmazione di aprile e non solo, un anniversario come questo richiede un'attenzione speciale. E quindi lo speciale Tra Utopia e Lotta, 80 anni di resistenza, è stato un modo per riprendere un po' le fila del discorso intorno alla liberazione, alla sua memoria e ai suoi modi di essere viva e vegeta 80 anni dopo. Per la puntata di oggi abbiamo deciso di riproporre la nostra comunità di ascoltatori e ascoltatrici la sfida di darci un consiglio, uno spunto per entrare in questo 80esimo e dobbiamo dire che siamo pienamente soddisfatte. La risposta, gli stimoli che avete mandato sono stati belli e importanti. Per quanto ovviamente la resistenza italiana sia stata la protagonista assoluta, i vostri suggerimenti hanno abbracciato anche una dimensione europea che non va affatto dimenticata. Quella contro il fascismo è stata una lotta internazionale e transnazionale, e quindi per capire il 1943-45 in Italia occorre avere una prospettiva più larga, almeno europea, per non dire globale. L'anniversario di quest'anno non è più importante degli altri, ma per il contesto politico in cui è stato celebrato ha una sua specificità. L'Italia è governata dalla destra radicale post-fascista e l'Europa ha vissuto e sta vivendo un netto e profondo spostamento verso una destra che non nasconde nostalgie verso vari fascismi e regimi collaborazionisti. In questi giorni poi la morte di Papa Francesco è stata una facile scusa per far dire ad esponenti di questo governo che il 25 aprile deve essere festeggiato con sobrietà, l'ennesima boutade per svilire il senso della lotta di liberazione da parte di chi avrebbe voluto la vittoria di Mussolini e di Hitler. Detto ciò, erano anni che non si vedeva una risposta di piazza e di festa come quella di ieri, 25 aprile, anche se c'è da dire, in alcuni comuni italiani, governati a vario titolo dalle destre, hanno annullato eventi legati alla liberazione. In ogni caso, moltissime persone hanno voluto far sentire la propria voce e questo è stato veramente importante. Da parte nostra si rende necessario portare avanti una prospettiva di ricerca e di riflessione storica per capire come i fenomeni storici legati alla Seconda Guerra Mondiale si siano effettivamente sviluppati, ma allo stesso tempo, secondo noi, è molto importante fare comunità e condividere. E con questo speciale speriamo di aver fatto entrambe le cose. Grazie davvero a chi ha mandato queste audio recensioni e siamo state veramente sommerse, tanto che prevedevamo di chiudere questo speciale e invece ci sentiamo la settimana prossima con la seconda parte degli interventi. Trovate la lista completa dei ringraziamenti sul nostro sito www.radiovallun.info. Evviva la Resistenza e ancora buon 25 aprile! È già da qualche tempo che i nostri fascisti si fan vedere poco e sempre più tristi. Hanno capito forse, se non sono proprio tonti, che sta per arrivare la resa dei conti. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, e vive partigiani, è festa d'aprile. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, e vive partigiani, è festa d'aprile. Allora, il mio consiglio resistente a un consiglio cinematografico. Si tratta di un film francese del 1969, diretto dal grandissimo Jean-Pierre Melville e Collino Ventura. Si tratta dell'Armée des Ombres, tradotto in italiano come L'Armata degli Eroi, che segue appunto le vicende di un gruppo di operativi della resistenza francese nella Francia occupata dai nazisti. È una spy story piena di suspense e dilemmi morali, scritta da un regista che ha appunto partecipato in prima persona alle gesta della resistenza nel suo paese e che quindi conosce molto bene l'argomento. È un film molto bello e molto triste, che ha anche avuto una storia molto particolare, dato che quando è uscito, appunto nel 1969, ha ricevuto delle critiche molto negative, dovute anche al contesto politico, che era quello subito successivo al 68 francese, quando la figura di De Gaulle e dei gollisti erano fortemente contestati. Inoltre, il tema stesso della resistenza a un invasore sul proprio territorio era diventato un tabù, ovviamente con la guerra di liberazione dell'Algeria. Per questi motivi e per queste recensioni molto negative, il film non era mai stato distribuito fuori dalla Francia, tanto che il pubblico americano è riuscito a vederlo soltanto nel 2006, dopo un restauro, e quindi circa 40 anni dopo la sua uscita originale. E proprio in quell'anno, nel 2006, tantissimi dei principali critici cinematografici e riviste di settore americano l'hanno inserito tra i migliori film dell'anno. L'Armée des Ombres, L'Armata degli Eroi, Jean-Pierre Melville, 1969. Buona visione. Il romanzo che mi sento di consigliare per celebrare la resistenza è Dalla parte di lei, di Alba de Céspedes. Questo romanzo racconta la storia di Alessandra, che nasce e cresce a Roma nel primo Novecento durante l'avvento del fascismo e trascorre la sua età adulta durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale, della Resistenza quindi, e poi del secondo dopoguerra. È dall'incontro con Francesco, che Alessandra conosce prima come compagno e poi come marito, che Alessandra viene in contatto con gli ideali della Resistenza, a cui lei decide di aderire attivamente, ricoprendo il ruolo di staffetta e trasportando materiali di cui lei stessa non è messa a conoscenza dell'entità, tanto che talvolta si trova a dubitare di trasportare effettivamente armi o meno. Nel corso della narrazione, Alessandra, che è la voce narrante all'interno del romanzo, arriverà a constatare come il trattamento a lei riservato è diverso da quello riservato ai compagni uomini. All'interno degli incontri, spesso suo marito le si rivolgeva chiedendole semplicemente di andare a preparare la limonata, tanto che lei arriva a chiedersi, eppure quei pacchi, quelle bombe, che fossero bombe o meno, le avevo trasportate anch'io, no? Anch'io avevo fatto la mia parte, perché quindi ero trattata diversamente? Interessante è anche la considerazione che Alessandra fa nel secondo dopoguerra, quando per una serie di vicende si trova a dover affrontare un processo e nota come la magistratura sia un organo ancora esclusivamente maschile. Questo fa riflettere su quanti fossero ancora i diritti negati alle donne anche nell'assetto istituzionale del secondo dopoguerra, malgrado il ruolo avuto attivamente all'interno della guerra di liberazione. Chiudo dicendo che negli ultimi anni Dalla parte di lei ha goduto di una nuova fortuna editoriale, perché la Mondadori ha deciso di ripubblicare la bibliografia di Alba de Céspedes, quindi il romanzo adesso è di più facile reperibilità. Buona lettura. Ciao Radio Van Loon, per questo 80° della liberazione, 25 aprile del 2025, vi propongo una lettura, un libro di storia. L'autore Manlio Calegari, che è uno storico di Genova abbastanza noto per le sue ricerche di storia orale dedicate in particolar modo alla resistenza della sesta zona Ligure, appunto nei dintorni di Genova. Il volume si intitola Trascrittura privata e grande storia, il diario dell'artigliere Ezio Bartoli, gennaio-ottobre 1943, edito da Impressioni Grafiche nel 2023. È un libro, come tutti quelli di Calegari, molto particolare, perché parte appunto da un approccio di storia orale, quindi rielabora alcune interviste che l'autore ha avuto appunto con Ezio Bartoli e si incentra in particolar modo sul ritrovamento durante alcune interviste che erano in realtà dedicate al tema della resistenza di questo diario che Bartoli ha tenuto tra il gennaio e l'ottobre del 1943 mentre era militare di stanza a Saint-Cyr vicino a Marsiglia, quindi in Francia. È un diario molto particolare perché è molto stringato, contiene delle frasi molto brevi, per lo più legate agli accadimenti quotidiani, ma che parla anche tanto di com'era quel periodo, di cosa voleva dire la guerra per un ragazzo di 20 anni che la stava combattendo in prima persona e che in realtà cercava di vivere la quotidianità nella maniera più, diciamo, normale possibile. Ovviamente il diario e poi anche il dialogo che Calegari ricostruisce nel suo libro con Ezio Bartoli è molto interessante perché ci parla poi anche della fuga dalla Francia, del tentativo riuscito di tornare a Genova e soprattutto ovviamente del tentativo di ricominciare una vita, tra virgolette, normale dopo l'8 settembre del 1943, cosa che ovviamente non succederà e che costringerà poi Ezio Bartoli prima a entrare in clandestinità e quindi a unirsi ai partigiani appunto della Sesta Zona Ligure. Quindi un libro che intreccia diversi piani narrativi, parla molto di come sciogliere i nodi della memoria a partire dai nostri ricordi e del dialogo intersoggettivo tra le persone che hanno vissuto un determinato periodo e chi invece cerca di ricostruirlo. È un libro molto diverso da come sono i libri di storia, quindi una lettura assolutamente adatta a chiunque si voglia approcciare al tema senza la pesantezza di un vero e proprio saggio accademico. Invito tutti quanti ovviamente a leggere, a me è una lettura che ha coinvolto moltissimo e niente, vi auguro un buon 25 aprile a tutte e tutte e a presto, buona liberazione. Il mio consiglio di lettura è un libro del 2019 di Matteo Petracci che si intitola Partigiani d'oltremare, dal Corno d'Africa alla Resistenza italiana. È un libro che ho trovato molto avvincente perché racconta di una storia che non conoscevo, cioè dei figuranti che dopo le campagne di Etiopia e Eritrea vengono presi come attori, come attrici, per la mostra triennale delle terre italiane d'oltremare a Napoli nel 1940, solo che queste decine di persone, che appunto erano pronte a fare gli attori e le attrici, si ritrovano in piena guerra. Quindi la guerra scoppia, l'Expo non parte, loro si ritrovano sostanzialmente imprigionati senza lavoro. Il regime non li vuole rimpatriare perché le barche, le navi servivano per motivi bellici. Quindi queste persone cominciano a vivere di espedienti, dimenticate da tutto e da tutti, e vengono a un certo punto, dopo quasi un anno, trasferite nelle Marche. Io sono marchigiano e quindi questa storia mi ha toccato particolarmente perché parla di luoghi che io avevo visto solo in un'altra ottica. Quindi queste persone vengono trasferite nelle Marche e a un certo punto fuggono. Fuggono da questo campo di internamento e alcuni di questi si affiliano con delle brigate partigiane. E quindi sul Monte San Vicino c'è questo gruppo Roti, che prende il nome dall'abbazia di Roti, attorno alla quale facevano le loro azioni, si incontravano. È un gruppo multietnico partigiano con persone che venivano dall'Etiopia, dalla Somalia, dall'Inghilterra, Slovenia, c'erano montenegrini, c'erano croati ed erano persone emigrate, perseguitate, che si ritrovano tutte insieme in questo angolo disperso, dimenticato da Dio e dagli uomini, e fanno le loro azioni partigiane. In occasione dell'80° anniversario della liberazione del nostro paese, un podcast che mi sento di consigliare è sicuramente il podcast Raccontare per la Storia, prodotto dall'Istituto della Storia delle Resistenze dell'Età Contemporanea di Parma. Partendo da un approccio biografico, appunto, il podcast ricostruisce la vita e le vicende politiche, di uomini e di donne che hanno combattuto la resistenza a Parma. Questo approccio consente di ricostruire non solo le scelte individuali di queste persone, ma anche di mettere in luce dinamiche di più lungo periodo e mostrano come la resistenza non sia quel fenomeno che è nato di colpo l'8 settembre del 1943, ma abbia radici più vecchie nel tempo che vanno ricondotte alla repressione del fascismo nei confronti degli antifascisti e quindi al fatto che molti dei genitori di queste persone siano state appunto incarcerate al confino o nelle galere del regime. A tal proposito, uno degli episodi non è dedicato a una persona, ma a un evento poco conosciuto che avvenne il 16 ottobre del 1941 a Parma, con un avvenimento che sconvolse per qualche ora l'ordine pubblico. Dopo che il governo infatti decise di diminuire la razione giornaliera di pane, centinaia di donne, principalmente operaie, manifestarono la propria rabbia per le strade e sfidarono la polizia fascista, che reagì arrestando le protagoniste di questi tumulti. Si trattava di un avvenimento storico che venne subito ribattezzato lo sciopero del pane e fu importante perché rappresentò la prima grande dimostrazione pubblica di avversione contro il regime fascista dalle barricate del 1922. È difficile scegliere solo due prodotti culturali che raccontino la resistenza e che per me hanno, come dire, un valore particolare. E, sicuramente uno è La sega di Hitler di Manlio Calegari, un saggio pubblicato la prima volta nel 2004 e dopo anni di carsicità ritornato in libreria nel 2021 grazie alla casa editrice Edit Press. Un saggio che va ben oltre la letteratura scientifica, perché attraverso la storia orale riesce a dare uno spessore umano, anche contraddittorio, all'esperienza partigiana a Genova e nell'entroterra genovese sull'Appennino Ligure. L'altro volume, in realtà sono due libri, l'altro volume di cui vorrei invece a questo punto parlare è un romanzo che è uno dei grandi classici, per me personalmente forse uno dei più belli, che raccontano dell'esperienza partigiana, che è I piccoli maestri di Meneghello, uscito nel 64, credo, nella sua prima edizione, quindi anche, insomma, lungo tempo dopo la fine della guerra, ma che anche qui, attraverso la potenza delle parole, ci dà un'idea della resistenza fatta effettivamente da persone giovani in carne e ossa, e lontanissimi dalla monumentalizzazione e dalla celebrazione retorica dentro le quali si vuole costringere la guerra partigiana. Grazie, buon 25 aprile, buona liberazione a tutti e a tutte gli ascoltatori e ascoltatrici. Per il 25 aprile voglio parlarvi del Museo della Resistenza Danese di Copenaghen, uno spazio immersivo che racconta la storia della resistenza danese durante l'occupazione nazista dal 40 al 45. L'ingresso è volutamente discreto, l'edificio è esternamente piccolo perché il museo in realtà si sviluppa sotto il livello del suolo. Questo elemento architettonico ha una grande forza evocativa. La discesa fisica negli spazi sotterranei riflette in modo potente la dimensione nascosta e clandestina della resistenza stessa e allude alla natura segreta, rischiosa e silenziosa dell'opposizione al nazismo. Il filo conduttore del percorso espositivo è basato su un impianto profondamente narrativo, in cui la grande storia è filtrata attraverso cinque biografie individuali. Ogni segmento del percorso è scandito da ambientazioni scenografiche che ricreano spazi vissuti, rifugi, redazioni clandestine, celle. Percorrendo questi ambienti ci si imbatte in diversi video dedicati alle storie di quattro partigiani, tre uomini e una donna, e di un collaboratore di nazisti, e si segue la loro evoluzione nel corso degli anni. Il racconto, in prima persona, è affidato all'animazione. I protagonisti appaiono come ombre, un dettaglio che aumenta il senso della clandestinità e della precarietà delle loro vite. Questa impostazione ha un forte impatto emotivo, ma risponde anche a una logica epistemologica. Restituisce infatti la pluralità delle forme di resistenza, armata, civile, culturale, e invita il visitatore a confrontarsi con dilemmi morali e scelte individuali, anziché con una retorica eroica o celebrativa. Interessante, infine, è anche il modo in cui il museo affronta la questione della memoria collettiva e della sua complessità. Non si eludono ambiguità, non si occultano contraddizioni. Il visitatore si confronta anche con i compromessi della popolazione, con le collaborazioni e con i suoi silenzi. Il museo diventa così uno spazio critico, un luogo in cui la storia non viene semplicemente appresa, ma problematicizzata. Buon 25 aprile! Saluto a chi sta ascoltando Vallun e buon 25 aprile. Il libro che condivido con voi è Notte Nebbia di Ludovico Barbiano di Belgioioso, architetto milanese fondatore dello studio BBPR, con tre amici con i quali dal 1942 entra in contatto col Partito d'Azione. Il libro, che prende il nome dal decreto nazista in cui si indicava, parafrasando Wagner, di far sparire gli oppositori Nacht und Nebel, nel niente, come nella notte e nella nebbia, è invece un essenziale inno alla resistenza. L'architetto ripercorre i suoi passi dall'arresto a Milano nel 1944 fino al campo di prigionia di Gusen, vicino a quello di Mauthausen, in Austria. La scrittura è asciutta, precisa, ma estremamente incisiva. Durante tutta la prigionia, Lodovico si esercita nel compiere atti di libertà che lo mantengono vivo, anche in quella condizione servile. Osserva il sole e le manifestazioni della natura, vive la solidarietà con gli altri compagni detenuti, costruisce un coltello a partire da un cucchiaio, recita Leopardi, immagina, sogna, canta, si sforza di non aver bisogno di niente, sbeffeggia. Quando si avvicinò al colonnello, con forza cominciai a pensare: io sono libero, mentre tu sei schiavo. Tu non capisci quello che penso, e io penso quello che voglio. Canticchio dentro di me l'inno di Mameli, oppure Bandiera Rossa. Anzi, per farti dispetto, la canto in tedesco, Die Rote Fahne, oppure canto l'Internazionale. Lui si fermò e mi guardò, probabilmente come guardava gli altri. Io mi sentivo, debbo dirlo, un leone, e senza abbassare gli occhi ricambiai il suo sguardo. La prova di forza durò qualche attimo, poi lui riprese a camminare. Ero sudato per lo sforzo, ma dentro di me ero infantilmente felice. L'avevo affrontato. Tra utopia e lotta, 80 anni di resistenza, è lo speciale della redazione di Vallun dedicato alla lotta di liberazione. Potete riascoltare tutte le puntate in podcast su www.radiovallun.info e sulle principali piattaforme audio. La voce che avete ascoltato all'inizio della puntata è della partigiana Vinka Kitarovic.